una serie di esperti mondiali, sia associazioni umanitarie come Medici Senza Frontiere, ma anche una serie di economisti ed esperti di salute pubblica, hanno firmato questa dichiarazione per chiedere urgentemente che tutti i paesi più poveri eroghino i farmaci contro l'AIDS gratuitamente. È una dichiarazione che nel nome Free by Five fa eco al programma lanciato l'anno scorso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che era intitolato invece 3 by 5, 3 milioni di persone in cura entro il 2005. La dichiarazione Free by Five, questa necessità urgentissima di chiedere che i farmaci vengano erogati gratuitamente, nasce da una considerazione. Nonostante oggi esistano nel mondo terapie contro l'AIDS economiche e di qualità, pochissimi pazienti nei paesi in via di sviluppo, appena il 4% di quelli che ne avrebbero bisogno, stanno ricevendo le terapie. Ad aggravare ulteriormente questa situazione già di per sé allarmante c'è il fatto che in molti paesi in via di sviluppo le pochissime cliniche che distribuiscono i farmaci contro l'AIDS chiedono ai pazienti di pagare per il costo di queste terapie. Si tratta evidentemente di una politica sanitaria assurda non solo dal punto di vista umanitario, perché è evidente che se bisognerà pagare per le terapie solo i più ricchi potranno curarsi, i più poveri, che in Africa sono la stragrande maggioranza della popolazione, non avranno accesso alle cure. Si tratta di una erogare i farmaci a pagamento è una politica miope anche dal punto di vista sanitario, è una politica pericolosissima, perché immaginiamo che la famiglia di un paziente malato di AIDS riesca a mettere i soldi per comprare i farmaci per il loro familiare, magari per i primi 4, 5, 6 mesi, magari anche per un anno. È molto probabile che alla fine di questi 6 mesi o del primo anno la famiglia non avrà più modo di pagare i farmaci per il malato. A questo punto avremo un certo numero di pazienti che avranno iniziato la terapia e poi saranno costretti a interromperla perché non possono più permettersi di pagare. Questo è esattamente il modo in cui si creano le resistenze. Vuol dire cioè che quando i malati iniziano la terapia e poi la interrompono, dentro di loro il virus cambia forma e assume una forma resistente ai farmaci. In questo modo sostanzialmente rischiamo di spuntare l'unica arma che abbiamo, i farmaci antiretrovirali, che fino a questo momento si sono dimostrati efficaci nel contenere gli effetti drammatici dell'AIDS, ma se erogati appunto in modo discontinuo rischiano di diventare completamente inefficaci.